Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Siamo al penultimo appuntamento con la rubrica dedicata alla Caritas prima della pausa estiva, ma chiudiamo, passatemi il termine, con il botto in questa e nella prossima puntata, particolarmente dedicate alla proposta, l'idea del Vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, idea lanciata nel giorno della festa di Sant'Antonio, la sua prima festa del Santo appunto qui a Padova. Il suo messaggio è stato incentrato proprio sull'attenzione ai poveri, lanciando l'idea dei cantieri di carità e di giustizia. Antonio, ha detto il Vescovo nel suo messaggio, è voce di carità, patrono della nostra Padova, santo invocato in tutto il mondo che rende la nostra città nominata e conosciuta ovunque. Pensando a Padova, città di Antonio, e pensando a tutto ciò che in questi mesi ho scoperto di questa città, la sua fede, le sue speranze, la sua bellezza, la sua storia di carità, vorrei, dice il Vescovo, dar voce al sogno di una Padova che, fedele al suo santo patrono, continui ad amare e lasciarsi amare dai poveri, tutti i poveri, quelli che sono nelle nostre case, non hanno il coraggio di manifestarsi per dignità, quelli che sono di passaggio nella nostra città, quelli che a volte ci fanno paura, o quelli che vengono da lontano con la speranza di ripartire o di rimanere a fare storia con noi. In questo momento storico non possiamo distogliere lo sguardo da ciò che sta avvenendo nel mondo intero. Con la più grande emergenza umanitaria che l'Europa si trova ad affrontare dal secondo dopoguerra e milioni di persone, tra cui tantissimi bambini, che scappano da guerre e ingiustizie inimmaginabili, soprusi e abusi, carestia e povertà. Così come non possiamo assistere inerti al rischio continuo che tanti di noi scivolino nuovamente, silenziosamente, in povertà che speravamo superate per sempre. Infatti, quando qualcuno bussa per la prima volta ai nostri centri di ascolto della Caritas, si sono già consumate gran parte delle risposte di dignità e di intraprendenza personali. La memoria delle nostre povertà di qualche decennio fa non dovrebbe sbiadirsi. Io, dice ancora il Vescovo, non posso dimenticare di essere stato povero. Padova è per sua natura una città che accoglie. Padova ha costruito inclusione e reciprocità pur nella fatica e nelle contraddizioni. Questa è stata la sua storia, una lunga tradizione di politiche sociali pensate e attuate insieme alla società civile, una lunga tradizione di lotte all'esclusione sociale di cui tanti ancora possono beneficiare. E allora mi chiedo e chiedo a tutta la città, possiamo immaginare e desiderare ancora una volta insieme il modo di stare accanto ai poveri, costruendo percorsi di accompagnamento, di prevenzione, dell'impoverimento progressivo, di soccorso per chi sta scivolando nella disperazione? Possiamo immaginare e desiderare una città che accompagna in modo personalizzato chiunque si trovi in stato di necessità, che vede nello stesso povero delle risorse da valorizzare, energie da riattivare? Certo, amare i poveri non è romantico né comodo, essi non rispondono a un cliché che ci facciamo noi, ma come tutti possono sempre sorprenderci. Quanta elasticità, fantasia, pazienza, ma anche gioia nel percorrere la strada della vita con i poveri. E quanto tempo, i percorsi di uscita dalla povertà sono lunghi. Così il Vescovo dice nel suo messaggio, partendo da queste convinzioni, proprio in un'occasione così significativa come la festa del patrono della città, desidero farmi promotore e lanciare un progetto che verrà presentato e illustrato pubblicamente proprio in questi giorni. Cantieri di carità e giustizia, un percorso in 3 tappe sul tema della povertà che si propone di individuare possibilità ancora inedite, opportunità e percorsi concreti e lungimiranti di emancipazione. Una prima tappa per fare memoria della storia di carità e giustizia della nostra città, una seconda che guardi al presente evidenziando le capacità e i talenti. Una terza tappa rivolta al futuro, orientata allo sviluppo di pratiche di lotta alla povertà da realizzare con i poveri stessi. Su questo percorso desidero impegnarmi come vescovo e coinvolgere i cristiani, le loro comunità e organizzazioni. Tutti possono aderire a questo percorso comune. Questo dunque come anticipazione nel giorno della festa di Sant'Antonio da parte del Vescovo Claudio per questi cantieri di carità e giustizia che saranno presentati nel dettaglio proprio in questi giorni, di cui vi daremo conto ampiamente nella prossima puntata. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.